Ok, sta tornando il vero. Abbiamo la ricetta perfetta. Mr. D, Big Moce, DJ Rupert. We're putting it on wax in the maze. I'm the 4-pound toter, the film bird smoker. You better always think twice. How you living your life? Siamo troppo presi dalla vita che di fretta ci ha rubato il sonno, ma portiamo la ricetta perfetta. Chiudo la stanchezza nella valigetta. Se la vita piatta chiama, abbasso la cornetta. Per la metà delle ore a tratti sono un numero, per i contanti ma come tanti a casa supero. Scrivo delle bombe, sfondo pure tu che non hai perso mai letto legnato. Ormai per me sembra uno sughero. Ho la ricetta con il quale prendo largo da sto mare di merda che porto sulle spalle e cargo. VA sta rinascendo ed io pure sopra sto palco tiro calci in culo finché resto con il piede falco. Il tuo problema non è quello che senti, la droga che ti prendi coi tuoi amici adolescenti. Di fare la star ti riesce bene che ti perri, ma il problema è che facendo il professore che ti perdi. Mettitela in testa, la mia ricetta è ciò che serve a soffocare la vendetta. Tu che parli tanto impara presto la lezione, io quelli come te me li mangio a colazione. Uno, a differenza dei buffoni, non baso una carriera sulle visualizzazioni. Due, me ne sbatto delle storie sul web. Sei da dire qualcosa? Presentati alle jam. Io rispetto chi rispetta la mia musica, stronzo. Vado fuori di Senna, tu come Senna d'Imola. Fuori per sempre dallo stereo mio chi ti considera. Io che firmo la storia mia senza pellicola. Chi parla male di Varese cade la mandibola. Rappa pure, non ti dico un cazzo. Cambia nome, trovati l'appellativo di rimpiazzo. Blocco l'aperitivo e ti raggiungo pure scalzo. Per stamparti il mio giudizio in faccia sei scarso. Il mio consiglio, cerniera sulla bocca. Per sentirti di Varese non ti basta Piazza Motta. Spingo il vero per i bastardi con la mente corta. Mr. Dylan, Big Moce, la fottuta flotta. La mia ricetta te la svelo in parte. La passione che mi lega al rap è come un montante. Ma la cosa più importante, l'unica costante, mettici l'amore prima della fama e il cantante. Mettitela in testa, la mia ricetta è ciò che serve a soffocare la vendetta. Tu che parli tanto impara presto la lezione, io quelli come te me li mangio a colazione. Uno, a differenza di buffoni, non baso una carriera sulle visualizzazioni. Due, me ne sbatto delle storie sul web. Sei da